Anima Jazz, un programma di jazz tradizionale e contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera, buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori. Un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Anima Jazz numero 683. Una puntata, come sempre, ricchissima di novità discografiche. Stasera le avremo sia sul piano vocale che sul piano strumentale. Ed iniziamo subito con una valida cantante che si chiama Kim Nazarian e che ha realizzato un bel CD con molti musicisti che si alternano nelle varie tracce, quindi molto ricco di partecipazioni qualificate. Il titolo del CD è Sun Morning e stasera noi ci ascolteremo il pezzo che apre l'album, che è intitolato Robin's Nest Boniology, e il pezzo è ricco di partecipazioni di ottimi musicisti quali il pianista Mark Soskin, il bassista Dwayne Dolphin, il batterista Roger Humphries, poi abbiamo il chitarrista Marty Ashby, il sassofonista Mike Tomaro e poi ai tromboni Jay Ashby, e alle trombe abbiamo Sean Jones e Steve Oak, chiaramente alla voce Kim Nazarian. Buon ascolto. You wouldn't be angry with me, would you, if I perhaps misunderstood you? Why have a falling out just when we're falling in love? Tomorrow when skies are getting starry, wouldn't we get to feeling sorry? Why have a falling out just when we're falling in love? There'll be some difference that get us, that naturally upset us. But people who have met us all say we go hand in glove. We're getting along so very nicely, baby, and that's my point precisely. Why have a falling out just when we're falling in love? Thank you. Inizio quello che ci ha offerto Kim Nazarian. Kim Nazarian, che da questo nuovo CD intitolato Sun Morning ci ha fatto ascoltare il pezzo che apre l'album Robin's Nest e Boniology, un pezzo realizzato, come ho detto prima, anche con una ricca band di musicisti che non solo hanno accompagnato la cantante, ma hanno offerto anche dei fraseggi molto gradevoli. Una cantante nella grande tradizione, nel grande mainstream, che sa cantare con una certa con un certo piglio di sicurezza, nello stesso tempo di naturalezza, e sempre molto gradevole in ogni suo passaggio. Dopo Kim Nazarian è il momento di un ottimo pianista, si tratta di Mike Melillo, che per Notami ha realizzato un bel CD in piano solo intitolato Remembrance, e stasera noi potremo ascoltarci Me and the Shadows, un pezzo di Johnson, di Billy Rose e Dave Dreyer. Sentiamo l'interpretazione che ci offre Mike Melillo in piano solo. Buon ascolto. Thank you. E ci siamo ascoltati anche Mike Melillo. Mike Melillo, ottimo pianista, come avete sentito dalla fresca esecuzione, grande esperienza, grande carriera alle spalle, in piena attività con grandi successi ovunque. Mike Melillo ha realizzato per la Nota Mi questo disco intitolato Remembrance, dal quale noi ci siamo ascoltati Me and My Shadow, la sua interpretazione vissuta con grande sicurezza, con grande professionalità e sicuramente con quel brio che rende interessante anche l'ascolto di un solo strumento, visto che questa è una sua performance in piano solo. La sua fantasia, la sua creatività riesce a dare colore, a dare vita ad ogni passaggio. Lasciamo Mike Melillo dal suo CD Remembrance ed andiamo a ritrovare un duo che abbiamo presentato poco tempo fa al Dubidubidù 2015, l'undicesimo festival radiofonico delle voci jazz italiane. Si tratta del duo A Bassa Voce, composto da Claudia Valtinoni alla voce e Tony Moretti al basso elettrico. Noi eravamo abituati, attraverso la vecchia pubblicazione discografica, ad ascoltare questo duo in solo, chiamiamolo così, appunto voce e basso elettrico. Invece in questo nuovo disco intitolato Una Cometa, il duo di base poi ha molti ospiti e tra i quali stasera noi potremo sentire anche il grande Javier Girotto, che suona il sax soprano in un paio di tracce di questo CD e che appunto potremo ascoltare nel pezzo che vi passo stasera. Ma gli ospiti sono tanti, c'è Fabrizio Gaudino alla tromba fricorno, Luca Nardoni al percussioni, Stefania Cavedonna al violoncello, l'orchestra dell'Accademia Musicale di Schio diretta da Fabrizio Castagna, e quindi ci sono violinisti, ci sono viole, violoncelli, insomma c'è la string orchestra che impreziosisce ogni pezzo di questo bel CD. Il pezzo che vi faccio ascoltare stasera è l'interpretazione della conosciutissima Senza Fine, scritta da Gino Paoli, l'arrangiamento è di Moretti. Buon ascolto quindi con il duo A Bassa Voce. Thank you.

interpretazione, tra l'altro con un bel arrangiamento a cura di Tony Moretti, di Senza fine, scritta da Gino Paoli, la mitica Senza file. Una bella interpretazione con una delicatezza, un'eleganza di voce che contraddistingue la giovane e brava Claudia Valtinoni. Bene, lasciamo il duo a bassa voce con la ricchezza dell'accompagnamento di questi ottimi musicisti e andiamo avanti con un artista che si presenta per la prima volta in Anima Jazz. Si tratta di Gregory Privat, che per la Degelt Productions ha realizzato questo CD intitolato Tales of Cyparis, dal quale noi ci potremo ascoltare Larry A. Buon ascolto con Gregory Privat. Thank you. Questa è la musica di Gregory Privat. Gregory Privat, che è un pianista e compositore giovane, molto bravo, sicuramente tra gli artisti emergenti più interessanti del momento. Il titolo del CD è Tales of Cyperis e noi ci siamo ascoltati Larry, è una composizione originale di Gregory Privat tratta da questo CD pubblicato dalla Degalt Production. Il CD è ricco di intuizioni compositive molto stimolanti. Questo era un pezzo ricco di ritmo, di forza espressiva, capacità anche interpretativa di tutta la band, di tutto l'ensemble che accompagna Gregory Privat ai massimi livelli. Veramente un bel disco con queste influenze jazz rock con grande energia. Adesso andiamo avanti con un altro ensemble, l'ensemble di Alexander Hawkins. Alexander Hawkins Ensemble, che ha pubblicato un CD per la Babel Label intitolato Step Wide, Step Deep, dal quale noi ci ascolteremo Advice. Buon ascolto con l'Alexander Hawkins Ensemble. Thank you. Bene, questo era l'Alexander Hawkins Ensemble dal CD Step Wide, Step Deep, pubblicato dalla Babel Label, dal quale abbiamo ascoltato una loro composizione originale intitolata Advice, una composizione morbida in chiave mainstream, che è l'unico pezzo, diciamo, in chiave mainstream di questo CD, perché è un CD invece molto dedito all'avanguardia, alla sperimentazione, alla ricerca. Ricordo che la formazione si chiama Alexander Hawkins Ensemble. Alexander Hawkins è il leader di questo gruppo, che ha realizzato il CD Step Wide, Step Deep. Andiamo avanti con un personaggio conosciuto a livello internazionale. Si tratta di Alan Broadbent, che noi abbiamo già promosso più volte con i suoi tanti progetti discografici, e che ritorna in Anima Jazz con Just One of Those Things, il CD pubblicato dalla Edition Long Play, e che è ricco di interpretazioni realizzate con grande professionalità ma anche con grande sensibilità. Io ho scelto per voi Just One of Those Things, che è proprio il pezzo che dà il titolo al CD, che è uno dei pezzi che mi ha appassionato particolarmente. Alan Broadbent in piano solo. Buon ascolto. Thank you. Bene, questo era il virtuosismo pianistico di Alan Broadbent, che ci ha fatto ascoltare la sua interpretazione molto originale, molto particolare, di Just One of Those Things, tratta dall'omonimo CD pubblicata dalla Edition Long Play. Un CD, questo era un live, molto vivace, vissuto veramente sull'onda della gioia interpretativa, con grande energia. Dicevo, è un CD veramente molto interessante, che conferma la validità di questo ottimo professionista che noi abbiamo avuto il piacere di promuovere più volte. Dopo il virtuosismo pianistico di Alan Broadbent, andiamo ad ascoltare invece un gruppo che si presenta per la prima volta nei nostri programmi. Si tratta di Cowboys and Frenchmen, che hanno realizzato un CD per la Carry On intitolato Rodeo, dal quale noi ci ascolteremo Bells of Mindfulness. Buon ascolto quindi con Cowboys and Frenchmen. Bene, questa era la musica del gruppo Cowboys and Frenchmen dal CD Rodeo. Noi ci siamo ascoltati la loro composizione Bells of Mindfulness, e un pezzo questo che dopo la velocità, il trionfo dell'energia dell'interpretazione di Just One of Those Things di Alan Broadbent invece ci ha riportato in un'atmosfera sospesa, un'atmosfera calma, un'atmosfera morbida, dall'interpretazione veramente molto poetica e molto suggestiva. Sicuramente un ottimo gruppo questo, che, come dicevo prima, si presenta per la prima volta in Anima Jazz e che risponde al nome di Cowboys and Frenchmen, veramente degli ottimi professionisti. Lasciamo i Cowboys and Frenchmen per andare ad ascoltare Harry Allen. Harry Allen ha realizzato un CD in omaggio a George Gershwin e a Duke Ellington, e l'ha proprio e non solo, anche a Cole Porter, e l'ha intitolato proprio For George, Cole and Duke, e il pezzo che noi ci ascolteremo è intitolato Who Cares. Buon ascolto quindi con Harry Allen. Thank you. Bene, questa era la musica del sassofonista Harry Allen. Harry Allen che in questo CD For George, Cole and Duke ha veramente offerto delle performance godibilissime, ricche di energia, ma ricche anche di fraseggi molto creativi, molto fantasiosi, di bella naturalezza espressiva. Sicuramente un bel disco, in questo caso realizzato anche con la complicità di Ehud Asheri con al pianoforte e poi Nicky Parrott al contrabbasso e la bravura tecnica di Chuck Reed al vibrafono, l'avete sentito in alcuni passaggi solistici veramente molto felici. Il pezzo che ci siamo ascoltati era intitolato Who Cares, quindi ricordate questo bel CD For George, Cole and Duke pubblicato da Harry Allen. E chiudiamo la serata con un nostro straordinario musicista, si tratta del trombettista Franco Baggiani, un musicista di grande esperienza, di grande capacità tecnica, di grande sensibilità e nello stesso tempo anche un musicista capace sempre di rimettersi in discussione. Ogni progetto discografico è sempre una nuova avventura e quindi sempre molto interessante scoprire il suo percorso. Divergent Directions, questo è il titolo del suo ultimo CD, dal quale noi andremo ad ascoltare Divergent Directions, proprio il pezzo che dà il titolo all'album, una sua composizione originale. Buon ascolto quindi con Franco Baggiani, che in questo pezzo è accompagnato da Giacomo Doni al sax baritono, Michele Steino al basso, Fabio Ferrini alle percussioni e Alberto Rosadini alla batteria. Thank you. Questo era Franco Baggiani, l'ottimo trombettista che ha pubblicato il suo nuovo CD per la Sound, intitolato Divergent Directions, e noi ci siamo ascoltati proprio la sua composizione originale che dà il titolo all'album. Un pezzo dalle grandi ampiezze, un'atmosfera astratta molto coinvolgente, molto interessante, che ribadisce la grande preparazione di Franco Baggiani, ma anche la sua grande creatività, la sua grande fantasia compositiva e la complicità della sua band formata da Giacomo Downey al sax baritono, Michele Staino al contrabbasso, Fabio Ferrini alla percussioni e Alberto Rosadini alla batteria. Con Franco Baggiani si chiude anche la 683esima puntata di Anima Jazz. L'appuntamento è come sempre a giovedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Anima Jazz.